tratta di un duopolio ed è un duopolio che di fatto non rappresenta solo due entità industriali in questo caso, ma in qualche maniera racconta classicamente il mercato, no? Cioè non sono solo delle aziende, sono il mercato, questo è un problema naturalmente, perché sono il mercato, non solo per l'aggressività con cui si muovono nelle acquisizioni, ma perché di fatto poi incominciano a controllare la filiera, non solo un settore, ecco, quindi non è che sono il monopolio del ticketing e basta, e uno dice vabbè tra virgolette naturalmente, ma il problema ancora più grande, quello più profondo, è quando la stessa società controlla la maggioranza, comunque una larga fetta relativa del mercato dello sbigliettamento, e poi incomincia a controllare molte di quelle che chiamano venue, insomma i locali, siano piccoli, grandi o giganti come le arene, i palazzetti dello sport. Capisci che c'è una difficoltà poi nel poter non solo accedere a queste strutture, perché poi di fatto tu, essendo fuori da Live Nation in questo caso, sei un concorrente, quindi loro ti possono dire di no perché è roba loro, o comunque possono anche porre dei paletti materiali che ti rendono impossibile anche immaginare l'idea. E dall'altro lato ovviamente questo crea un favoritismo per quello che riguarda gli artisti che vengono poi contrattualizzati e gestiti dalle piattaforme, che ricevono un trattamento tra virgolette di favore, se vogliamo dire così, oppure se vogliamo guardarlo al contrario, i loro non artisti vengono sfavoriti magari per quello che riguarda politiche di sbigliettamento, promozione, targeting specifico, perché naturalmente si lavora sul pubblico anche attraverso la targetizzazione. Ci sono difficoltà appunto nell'immaginare quale tipo di strutture possono ospitare certi tipi di eventi oppure che no. Insomma, è evidente che quando una struttura privata a tratti monopolistica come Eventim e Live Nation muovono in questa maniera qua, c'è un problema, perché poi ti piaccia o meno Elodie, che ti piaccia o meno gli Esercizi di Gioia o un'altra band ancora più piccola, è chiaro che comunque si parla di cultura, e quindi qui c'è un mostro corporate gigante che sta privatizzando l'infrastruttura di distribuzione di accesso alla musica dal vivo in questo caso, ma in generale agli eventi. E questo è un problema, perché la domanda, almeno per me che sono un operatore della cultura da 20 anni, è sempre quella: la cultura di chi è? Noi che la immaginiamo, del pubblico, che è pubblico ed è una bellissima parola pubblico, o è di qualche industria privata? Ecco, io penso sempre che sia del pubblico in generale, non solo delle persone che accedono, ma sia proprio una questione di cosa pubblica, no? Come dice la Repubblica, appunto. Perciò bisogna stare un po' attentini quando si vedono queste mosse a applicarsi. Si può immaginare che dal punto di vista dell'industria discografica questo abbia delle ripercussioni evidenti, perché se io sono la discografica, l'editore o il manager di un artista e so che la filiera distributiva dei concerti è in mano a un'azienda, evidentemente mi dovrò rivolgere a quell'azienda se ho delle ambizioni di successo, di grandi numeri, eccetera eccetera. Quindi viene anche un po' espulso dall'immaginario quello che è la costruzione di un percorso alternativo. Come si potrebbe agire secondo te per arginare questo fenomeno? Ah, guarda, la domanda potrebbe essere posta ancora più grande: come agire per arginare le derive neoliberiste definitive? Ma è semplice, e dall'altro lato non si può neanche pensare di fare il mincul pop. Ci sono delle autorità che si chiamano antitrust in questo caso, che come è successo in America tra l'altro, che il Dipartimento di Giustizia ha aperto delle indagini nei confronti di Live Nation e Ticketmaster. Anche in Italia e in Europa ci possono essere le istituzioni, sia dal punto di vista statale che appunto europeo, che incominciano a bussare le porte, a chiedere se questa cosa va bene oppure no, perché comunque anche legalmente cerchiamo di evitare che esistano i monopoli privati. Che poi questa cosa succeda oppure no è appunto sempre un po' in delega alle istituzioni. Ci sono in realtà già alcuni provvedimenti in atto nei termini proprio di emanazione legale, quindi cose che vengono prodotte dalla comunità europea per limitare queste eventualità, sia su Digital Act eccetera, che però appunto insomma sono sono ancora in fase di costruzione e di applicazione, e sarà poi la loro responsabilità, in quanto rappresentanti legali delle comunità e dei popoli, affrontare l'eventuale indagine su, appunto, antitrust, eccetera. Noi privatamente possiamo, appunto, alzare il ditino e dire: guardate, questa cosa qua è, non dico sospetta, però quantomeno non del tutto condivisibile, e quindi sperare che poi qualcosa succeda. Io personalmente non sono un grande fan dei boicottaggi, perché vengo da una generazione che ha boicottato qualsiasi cosa e guarda dove siamo arrivati, però ogni volta che acquistiamo un biglietto, naturalmente sottoscriviamo un patto e un contratto anche dal punto di vista legale, e di fatto poi continuiamo a validare un certo tipo di idea di cultura, di commercio e di attività predatorie sul settore. Quindi se qualcuno lavora con Live Nation sono contento, tra i miei colleghi e colleghe, però non credo che finanzierò i loro tour.